voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Thank you. Sydney Tidwell è lei che ha aperto quella che è la quarta parte, l'ultima parte anche di questa ennesima settimana, di questa ennesima stagione in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. Lei proviene da Nashville, Tennessee, per esempio suo nonno partecipava al Grand Ole Opry, però lei del country ha solo veramente delle piccole tracce, beh, per esempio nel brano che io ho scelto per aprire questa parte di eclettica direi quasi nessuna, Mama from the Mountain, il titolo del brano che ha aperto la quarta parte di eclettica. Vi ricordo che Giulio è radiorockfm.com, è il modo che avete per raggiungermi, e che il fin della settimana, per cui già avete avuto modo di sentire un po' di strilli, quelli di Jamie Lee Curtis, è Halloween, l'avete sentito proprio in apertura di questa quarta parte di eclettica, che prosegue con una batteria che dovrebbe risultarvi parecchio conosciuta, almeno in queste ultime settimane. Yeah. Pensando al futuro, una cosa che l'adolescente immaginava era di vivere un giorno con un bambino. Questo pensiero contemplava l'idea di una muta comunanza, di rapidi scambi di sguardi, di uno stare insieme accoccolati, di una scriminatura scomposta nei capelli, di vicinanza e lontananza in una felice unione. La luce di questa immagine ricorrente era l'ombra cupa che cala poco prima di piovere in un cortile deserto, coperto di sabbia grossa e circondato da una rada fascia erbosa, davanti a una casa percepita solo vagamente, sempre alle spalle, sotto il fitto fogliame di alberi alti dall'ampia chioma a tratti frusciante. Questo era l'incipit di Storia con bambina, di Peter Handke. così ritornati ad ascoltare l'ultimo dei Devix dopo un po' di tempo. Era un po' di tempo che non passavano in Eclettica. Prima dell'incipit di Peter Hunt, che vi siete invece ascoltati un estratto da una band che è uscita per Fratto 9 Under the Sky Records, la casa discografica di Gian Maria Aprile. Una band che prima era passata, ma sto parlando di anni prima, per Demolition. I Caboto, quindi, dalle parti del jazz, quello che ci siamo ascoltati, con il titolo di This Architecture, Glass Elephant Goes Downtown, brano estratto dal loro ultimissimo Hidden or Just Gun. Quindi un po' di musica italiana all'interno di Eclettica. Poi siamo passati ai Devix ed ora si ritorna in Italia. Si ritorna in Italia, per la precisione, a Firenze. E guarda un po', non era assolutamente organizzata, me ne sono reso conto mentre dicevo guarda un po'. Anche questi passati da Demolition anni fa. Sto parlando degli Ether, oggi, ora, in questi mesi, in uscita per Musiche Lab, con Every Kebab, estratto appunto dall'album Intimo Personnels. E così siamo arrivati anche alla fine di questa settimana di Eclettica, di settimana in compagnia di Giulio Caperdoni e da parte mia in compagnia vostra. Vi ricordo che il modo per mantenere il contatto c'è, giulio@radioracofm.com, è il modo anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica per vincere gli ingressi a Cesare Basile, a Marco Parente 14 e 18 alla Casa 139 di Milano. Vi lascio ancora con musica parzialmente italiana, gli Ashes con Ragaria. Alla prossima! Faccia attaccare a capo, abbia partita, tu non lo sai che su, dalla sandera si non te ne vai papà, i sono che lo darà gente, non lo porta niente, non te ne avere niente, i sono malamente, i sono uomo e tengo filo in da sacca, e faga fissa sciolta, ma basta un po' che coccare in da cave morta. E ghiaccio per la femmina quando una mi maglia come fosse la cuore capituna. Se ma vanno se girano spattano pure scella, ma vanno a farne tutto quanto in da di ella. Ho sapito chi comanda qua, gente merda senza dignità, amma pezza pura l'umanità. E per di giorno c'è venisse mamma, quale buona, quale malamenta. Si che stai in amore non voglio sapere niente. Pizza vi sembra buona come andiamo, primo piano ci facciamo una bocchia d'ambol. D'ambol, d'ambol, d'ambol, i mani a vaca, i mamma levatore. E a ritorno solamente quando schiare i corna. Capisci a me? A ritorno fa picciato di pianta, come asciutta si ladra la napoletana. A ritorno fa picciato di pianta.